coglioni che dobbiamo cominciare. Si va sempre più su, sempre di più. Sai come funziona? Meglio che lasciate stare. Basta cazzeggiare, ora fuori dei coglioni che dobbiamo cominciare. Qua si spinge hip hop senza cash in tasca, e ci si arrangia con quello che passa, vieni e tasta. Quel che dite di vivere, non l'ho visto giù in strada. Troppi viaggi ne ho abbastanza, quindi ora boh basta. True rap master, belle mie cascate male. Ne ho visto gente passare, cercare di arrancare, cagare il cazzo e poi tirarsi indietro il tale. Bravo a blatterare, di più a scappare quando si sta a quagliare. Musica e vita, prima dai poi prendi a te. Prende per il culo senza che ne sia cosciente. Gonfi di firme, ma non si sente la merda. Io soffio due rime, sposto le fondamenta. Spingo i fondamentali che affondano trip mentali, che fondamentalmente rafforzano vibre vitali. I giusti battiti che voi neanche lontanamente pensate che esistano, perché dentro non vi rimane niente. Zero cloni, se ci sono sucker spreco fuori dai meglio coglioni. Meglio che lasciate stare, basta cazzeggiare. Ora fuori dai coglioni che dobbiamo cominciare. Si va sempre più su, più su, più su, sempre di più, sempre di più, più, di più. Meglio che lasciate stare, basta cazzeggiare. Ora fuori dai coglioni che dobbiamo cominciare. Se domani dovesse andare di moda rap e mazurka, sareste in prima fila a seguire il tiro a Saburka. Uscito dal nulla 10 anni fa, dici che c'eri, io in giro da un po' a quei tempi. E tu dove cazzo eri? Acculturati, letterati da una marea di stronzate. Pensate ad essere, non a come verrete in foto. Fulminati, negate, avete idea di dove andate? Ucciderei tutti gli stronzi come voi che fanno rap per gioco. Sempre secondi, sempre arrivati dopo. Noi davanti e seppure in altri mondi, da sempre fuoco. Voi blef di strada, noi strada coppia di cappa. Se attracca di porto in porto, son pronto, attacca banda. Lasciate ogni speranza, l'entrata è a vostro rischio. È come tornare stronzi da una notte fatta in disco. E questo è l'originale per tutti voi che ascoltate. Diffidate dai pagliacci e dalle loro cazzate.